Va ora in onda Rock Revolution. About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right, all right, all right? You say you got a real solution. Plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be? In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Ben trovati a questo nuovo appuntamento su CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede, con Rock Revolution, il programma che ormai conoscete abbastanza bene, quello che insomma vi fa ascoltare la musica nuova, la musica emergente, ma non solo, anche i grandi successi degli artisti nazionali e internazionali. Anche quest'oggi, come sapete, avremo diverso materiale di cui parlare, ovvero intervisteremo una band da Novara in Piemonte per conoscere il disordine delle cose. Vi do subito il loro sito internet, ildisordinedellecose.it, così andate a dare un'occhiata. Nel frattempo c'è anche un MySpace, che è myspace.ildisordinedellecose.it. Poi avremo in studio con noi Francesco Vannini, un amico che artista, che faceva parte di una band, però ne parleremo meglio dopo. Adesso ha affrontato una carriera da solista, parleremo meglio con lui, e tra l'altro ascolteremo anche delle canzoni dal vivo direttamente qui in studio in versione acustica. Do subito il benvenuto a Simone. Buonasera Simone. Buonasera, buonasera a te Filippo, buonasera come sempre a tutti gli amici di Rock Revolution e di CRM Happy Radio. Io ricordo, a Novara c'è un alimento particolare molto conosciuto. In questo momento non mi ricordo se è il cioccolato, che è famoso di Novara, o qualche altra cosa. Se lo sapete, fatecelo sapere, altrimenti stanotte non dormo. Via SMS al 335 56 37 251. L'ho detto così con la scusa, vi do anche il numero per gli SMS. Oppure via Facebook. Tra l'altro, con Simone stavamo vedendo questa novità di CRM, che dal nostro profilo di Facebook CRM Happy Radio. Simone, cosa succede? Sì, praticamente grazie al nuovo aggiornamento delle pagine di Facebook potete seguire CRM Happy Radio direttamente su Facebook senza uscire dal vostro amato social network. Quindi ci potete ascoltare e guardare comodamente mentre siete su Facebook, insomma chattare con i vostri amici, e potete interagire chiaramente anche con noi richiedendo una canzone qualora possibile. Tra l'altro dico perché dico proprio possibile, siamo cattivi, siamo maligni, non ve le vogliamo mettere. No, perché c'è una scaletta veramente molto molto interessante questa sera. Avremo il Rock Revo Live, l'appuntamento con le due canzoni di gran successo in versione dal vivo. E questa settimana Metallica e Queen, due canzoni sorpresa, non vi so dire quali sono. Poi ascolteremo anche una canzone di una band che è stata ospite di Rock Revolution, che sta andando veramente molto forte in giro per l'Italia, con tanti concerti nelle Feltrinelli, negli altri insomma locali molto di voga per le band emergenti. Parliamo dei Pan del Diavolo, che abbiamo conosciuto, ottima musica per i Pan del Diavolo. Poi non manca chiaramente il Rock for You, i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Anche questa settimana quattro grandissimi classici della musica. Che dire, iniziamo subito con il rock. Arrivano loro, Nickelback con Bottoms Up. Avete tutte le coordinate. Ah, dimenticavo il nostro sito internet, poi non parlo più, promesso. Allora www.rockrevolution.it, ci potete guardare e ascoltare anche in streaming in tutto il mondo, all over the world. Inizia questa nuova puntata di Rock Revolution, ben tre ore di rock and roll e musica emergente. Benvenuti e buon viaggio. Hey, Bottoms Up, Nickelback, bella canzone, è stata dall'album Here and Now del 2011, ragazzi, è già passato un anno dal 26 settembre, data di pubblicazione di questo singolo, ormai insomma siamo quasi in primavera, ce l'abbiamo quasi fatta, l'inverno è ormai quasi andato e siamo quasi contenti, concluderei per continuare con i quasi. Se mi ascolto i miei allievi stasera mi fanno nero. Parliamo del corso radiofonico, saluto tutti quanti i ragazzi del corso, grandissimi, mettetecela tutta, mi raccomando. Arriva il nuovo successo dei Black Keys, This is Lonely Boy. Volevo salutare anche Ivan Mialvic, che ci segue sempre dalla Jugoslavia, un grandissimo chitarrista che abbiamo intervistato questa settimana. Saluti alla Jugoslavia, bye bye! CRM Happy Radio Rock Revolution, il programma rock di CRM. Grandi successi del passato e nuove proposte musicali presentati da Filippo Brancato. davvero una bella canzone, tra l'altro anche colonna sonora dell'NBA di quest'anno. Questa era Come On and Get It, nuovo singolo di Lenny Kravitz, uscito il 20 febbraio del 2011. Tra poco ci metteremo in collegamento con Francesco Quartararo per conoscere tutti quelli che sono gli eventi più interessanti questa settimana a Palermo e provincia. E quindi ascolteremo queste belle novità che Francesco ogni settimana ci porta. Poi diremo anche il sito internet dove trovare tutto il materiale più interessante. Adesso due brani in sequenza. Una sequenza un po' speciale, perché questa settimana ascoltiamo due canzoni di successo degli Status Quo, una dopo l'altra. Grande Rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei dannati. You know my time. Diretta su CRM Happy Radio, Rock Revolution, il programma rock dedicato agli artisti emergenti. Diablo, Litfiba. Il Diablo tra l'altro è contenuto all'interno del primo album dell'Litfiba degli anni 90, primo che non sia suonato dalla formazione originaria, quella con Ringo De Palma, mentre è entrato nella formazione Antonio Iazzi del tastiere, che tra l'altro è ancora il tastierista dell'Litfiba. E questo tra l'altro è stato il disco che ha fatto raggiungere all'Litfiba il grande pubblico, grazie a chiaramente il Diablo come singolo, ma poi anche Gioconda, che era il secondo singolo. E con questo album loro hanno gettato le basi per la costruzione della tetralogia dei Litfiba, che prenderà poi corpo negli anni successivi e rappresenta i quattro elementi naturali, ovvero l'acqua, terra e fuoco. Il fuoco chiaramente di El Diablo, caratterizzato da pezzi denuncia come appunto El Diablo e anche Vuda Vuda, che il Diablo parla insomma del presunto satanismo del rock, mentre Vuda Vuda sulla penuria di acqua sul pianeta Terra. Poi c'è anche bellissima insomma la celebre Proibito, che descrive un mondo limitato in tutto, dove niente è effettivamente più libero. ma contiene anche dei pezzi molto più intimi e introspettivi, come ad esempio Il Volo, che ricorda per l'appunto la triste perdita di Ringo De Palma, morto per un overdose di eroina, e poi anche Ragazzo. Insomma, un disco davvero molto bello, è Il Diablo, parliamo degli anni 90, con Elite Fiba. Questa sera un bel po' di musica italiana, tra l'altro non ci siamo dimenticati The Show Must Go On, si dice nel gergo dello spettacolo, perché comunque lo spettacolo deve andare avanti, ma non ci siamo dimenticati di quello che è successo in questi ultimi giorni, quello che è successo ieri, e ne parleremo poi a fine puntata. C'è uno spazio dedicato interamente a lui e sapete di chi sto parlando. Prossima canzone in arrivo, parliamo di Sergei Tankian. Devo dire che l'ex Jugoslavia sta sfornando grandi talenti. Questo è Sky Is Over, questa è CRMP Radio, la radio che si sente e si vede, e questo è Rock Revolution fino a mezzanotte. To cradle the sound, living in remorse, sky is over. Don't you want to hold me, baby? Disappointed, going crazy. Even though we can't afford the sky is over. Even though we can't afford the sky is over. I don't want. Sergei Tankian, Sky is Over, singolo estratto da Elect the Dead del 2008. Tra l'altro volevo segnalarvi il video di questa canzone, molto particolare perché è diretto da Tony Petrosian ed è girato una sola volta, in una sola volta. Mostra Tankian che suona dall'inizio del brano con un pianoforte bianco in mezzo a una strada, poi si alza e inizia a scrivere sul cielo finché non si dirige verso un altro pianoforte, stavolta nero, con il quale suona le ultime note della canzone. Poi alla fine del brano è possibile anche leggere ciò che ha scritto sul cielo, davvero molto particolare, ovvero Civilization is over. E questa è una cosa che fa pensare un po'. I Planet Funk! You keep saying you've got something for me. Something you call love, but confess. You've been messing where you shouldn't have been messing. They're gonna walk all over you. But you ain't been right. are gonna walk all over you. Secondo me è impossibile stare fermi con questa canzone. È proprio matematico. Sono i Planet Funk con These Boots Are Made For Walking, bellissima cover dell'Egyptian. Con questa un po' versione un po' elettronica. Con questi synth, questi loop. Bella, bella. Over you. Allora, siamo in collegamento telefonico con Francesco Quartararo. Francesco, buonasera, bentornato. Ben, sì, mi hai fatto ballare pure a me. Ho dovuto accostare. È vero, c'è proprio questo ritmo andante, questo groove che ti tira proprio in mezzo. Io mi sono divertito con questa canzone, anzi l'ho richiesta esplicitamente. Già un paio di puntate che la faccio mandare in onda, saranno grati i Planet Funk. Eh sì, dai, bel gruppo italiano che merita. Assolutamente. Merita. Senti Francesco, allora cosa ci racconti di bello questa settimana? Intanto com'è andata la tua? È andata abbastanza bene. La settimana scorsa, sabato, ero in giuria tecnica allo School Contest. Tante sorprese, perché insomma c'era una band che era favorita alla vigilia, se ne parlava, qualche voto in più è arrivato anche in fase di spoglio, ma sono stati bruciati per 4 voti da un gruppo che a quanto pare è Rock Revolution, a cui Rock Revolution ha portato fortuna. Proprio così. Perfect Crime, che hanno vinto per 4 voti, ma insomma ce l'hanno fatta. Bene, quando li incontri diglielo. Avete visto che diceva Filippo che si è avverato? Sì, era lungo la strada, infatti... Ho cercato in tutti i modi di ritardare la telefonata, però niente, al prossimo giro. Al prossimo giro, va bene, non importa. Senti, allora, la settimana è andata bene al di là di questi impegni artistici? Sì, settimana che è andata bene, tra l'altro segnalo un'esplosione di musica a Palermo, vuoi che ci sono le comunali e quindi si respira aria nuova, forse qualcosa... di nuovo a Palermo arriverà. Fatto sta che veramente venerdì più che sabato, stranamente, ho dovuto registrare tantissimi concerti. Io sono riuscito a prenderne solo alcuni, ma ce n'è davvero tanti in giro. Bene, sono contento, insomma, finché c'è musica c'è speranza. Eh sì, finché c'è musica c'è speranza. Poi qualcuno proprio qualche ora fa ha detto: io pensavo che in questi 10 anni Palermo fosse morta, e invece mi accorgo che la cultura a Palermo c'è e come, anzi, ha resistito, è stata il cuore di questa città e ora basta dargli soltanto fiducia. Mi viene da dire, Francesco, più comunali per tutti. Più comunali per tutti, sì, proprio così, esattamente. Senti, allora, qualche concerto, qualche evento invece per il prossimo weekend? Allora, intanto vabbè, questa sera c'è veramente tanta roba dal Goethe Institute, che propone il suono dei soli, fino ai Broken Valves, che al Biergarten presenta il loro nuovo album, con altre band palermitane che però sono note anche al pubblico in Rock TV come Alter Ego, Judas Fire, Orcus. Mm-hmm. Domani musica tosta, quindi al Biergarten, mi pare di capire. Musica bella tosta al Biergarten. Sì, musica tosta, ma ripeto, c'è davvero tanto. Abbiamo musica folk, blues, al WAG, un tributo per Jam, un tributo a John Lennon. Ah, che bello. Sì, veramente c'è veramente tanta buona musica in giro. Bene, bene. Per domani invece segnalo l'X Live al Piazza Sant'Anna, poi Fortunes al Gatto Nero e la prima semifinale del Barcollo, del contest dell'Arci Barcollo, che insomma vede sfidarsi Zyron e Chasing Memories. Sono due gruppi totalmente diversi. Mm-hmm. Il primo è un gruppo, diciamo, metalcore, insomma musica tosta, molto tosta. Mm-hmm. Tecnici in grado anche di rifare Beat It di Michael Jackson, di Michael Jackson in chiave hardcore divertentissimo. Ah, bello, molto particolare sicuramente. Sì, tra l'altro so che gli sto bruciando qualche qualche sorpresa, però so che stanno lavorando a un brano dei Pantera. Ah. Stanno lavorando a una cover, anche se questa è molto impegnativa, quindi non so se la sarà mica Becoming dei Pantera. Non lo so. Mi ricordo solo Chaos in the Street, ti dice qualcosa? Ah, benissimo, benissimo, okay. In versione brutal metalcore, devo dire la verità, è qualcosa di spettacolare. Bene, bene. Poi hanno nel loro repertorio anche una cover di The Bleeding, che paradossalmente a molti piace più della Bleeding originale, quindi attenzione. Mm-hmm. Ti dicevo, poi vabbè, ovviamente hanno anche dei brani loro abbastanza interessanti, e poi di contro, come ti dicevo, un gruppo totalmente diverso sono i Chasing Memories. Sì. Chasing Memories, che vengono dalla scuola punk. Vengono dalla scuola punk, ma ovviamente, come anche il punk, si evolvono le musicalità attuali. Band, secondo me, che ancora ha dei margini di crescita, non sono esattamente compiuti così come gli Zyron. Staremo a vedere, perché è un contest, almeno fino alla semifinale non c'è parere alla giuria tecnica, quindi decideranno le persone qua, decideranno sì le persone che vengono, insomma. C'è un applausometro per caso? No, funziona in maniera un po' cinica, ma devo dire la verità anche abbastanza corretta per le band, nel senso che a un voto corrisponde un ingresso, quindi ogni ingresso che c'è viene data la possibilità di un solo voto, quindi non a consumazione. Mm-hmm. Il che ti dà anche alle band la possibilità di avere un giudizio corretto, perché alla fine, insomma, tanti voti, tante persone devono essere entrate nel locale. Certo, certo. Beh, è un meccanismo infernale. Infernale, più persone porti, più hai possibilità. Ma è il livello del conto. Infernale, ma paradisiaco per i gestori dei locali. In questo modo chiaramente. Bene, sì. Anche loro. Bene, sì. Non se la passa. Vabbè, purché si possa far musica, ben venga, insomma, anche questo sì, modo nuovo. È il meccanismo nuovo del contest. Diciamo, ci sono varie modalità. Quella principale, il voto del pubblico, la puoi fare con le consumazioni, però anche lì magari tengono 100 ragazzi con un euro in tasca, poi arrivano due persone con pacchi da 100 euro e anche lì, insomma. Certo, certo. Vabbè. Ci sono vari modi di organizzare un contest, ma a noi non ce ne fotte. Niente. Esattamente. Mi interessa solo la musica. Senti, tu invece questa sera cosa farai? Bene. Io di solito, io dico una cosa, io generalmente quando ti guardo in webcam e ti vedo proprio fisicamente, sono più tranquillo. Quando ti sento al cellulare non so mai dove sei, se sei sulla montagna, se sei al mare, no, al fiume. No, per ora sono ad altezza pianura. Ad altezza pianura, e a dirti la verità stavo per raggiungere il Vintage, che c'è una buona serata di karaoke. Ah. Anche perché, e non lo nascondo, di solito chi fa musica arrotonda con un qualche serata karaoke. Certo. E quindi, insomma, anche quello si può stare. Vabbè, allora cosa, magari dedicaci una canzone, ti metti al microfono, ci canti una bella canzone di Lucio Dalla magari stasera, che ne pensi? Eh sì, guarda, credo che la chiederanno in tanti, perché già so da altre città della Sicilia, altri amici mi dicono che le serate karaoke ormai, almeno per questo weekend, sono tematizzate Lucio Dalla. Certo. Io quella che a me è piaciuta, che mi è venuta subito in mente quando ho saputo che Lucio Dalla è stata Caro Amico. Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'. Sono state le prime cose che mi sono venute in testa appena ho saputo, insomma, Lucio Dalla è andata a suonare per un produttore migliore. Certo, anche perché vorrei chiudere un po' con questa, giusto per tirare un po' sul morale. Tutti dicono, ma come mai è rimasto Justin Bieber, che molti odiano, o altri. Sono saliti gente come Whitney Houston, Michael Jackson, Ronnie James Dio, appunto, proprio a rimanere in tema. E insomma, una delle cose carine che gira in rete è perché lì ha buoni gusti musicali, quindi la musica cattiva però non rimane sulla terra. Prendiamola in questo modo, Francesco. Ti ringraziamo, buon weekend chiaramente, appuntamento la prossima settimana. Buon weekend a tutti voi, e anche perché la prossima settimana mi pare dell'8 marzo, quindi... Infatti, la festa delle donne. Festa delle donne che, insomma, sappiamo tutti, si festeggiano ogni giorno, però a loro non dispiace magari una serata per i fatti esclusivamente loro. Dai. È giusto. Va bene, Francesco, allora a presto, un abbraccio, grazie. Un saluto a tutti, buon rock. Ciao caro, buon rock anche a te. Ah, che bello, allora sono il pan del diavolo. Sono venuti a trovarci qui in radio. Hanno soltanto anche Cefalù con Rock Revolution. Davvero una bella band, due ragazzi molto in gamba. Rock Revolution ha portato fortuna anche a loro, Simone? Assolutamente. E questa è tratta da loro ultimo disco. So che stanno lavorando assiduamente a un nuovo progetto musicale. Siamo ansiosi di poterli ascoltare e magari intervistare nuovamente qui su CRMP Radio all'interno di Rock Revolution in diretta. E quindi Pan del Diavolo con Pertanto. L'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Kasabian, Where Did All the Love Go? Su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede all'interno di Rock Revolution. Come sapete, Rock Revolution è sinonimo di rock and roll, ma anche di musica emergente, di grandi successi di tutti i tempi. Adesso ci mettiamo in collegamento con quel Piemonte, con la bella città di Novara. Adesso scopriamo se è proprio città oppure periferia, per parlare di un progetto musicale molto interessante. Parliamo di una band che si chiama Il Disordine delle Cose. Vi do il loro sito ufficiale, è appunto ildisordinedellecose.it, il loro MySpace, myspace.ildisordinedellecose.it, e dovremmo essere al telefono con Emanuele Sarri, il chitarrista della band. Emanuele, buonasera. Ciao, eccoci. Buonasera, benvenuto a Rock Revolution. Senti, allora iniziamo a parlare subito di questo vostro progetto musicale per gli amici che ancora non vi conoscono. Quindi, chi sono Il Disordine delle Cose? Sì, siamo una band piemontese, come dici tu, di Novara, che è una città che si trova tra Milano e Torino, insomma. E, siamo una band che è presente sul circuito indipendente ormai da 3 anni e è appena uscito il nostro secondo disco, La Giostra. Ecco, infatti volevo parlare proprio di questo, perché sappiamo che il 29 febbraio è uscito questo vostro lavoro dal titolo La Giostra. Quali erano le vostre aspirazioni nella registrazione, nella produzione di questo nuovo lavoro? Cioè, a cosa puntate? Dove volete arrivare? In realtà, beh, noi siamo appassionati di musica e facciamo musica proprio per questo. E in questo disco abbiamo voluto affrontare una ricerca musicale che potesse unire le sonorità del rock più nord europeo con invece il cantautorato italiano, che ci appartiene molto fin dal primo disco. E proprio per questo, infatti, l'abbiamo registrato in Islanda, nello studio di Sigur Rós. Ecco, infatti, vicino a Reykjavik. Stavo leggendo proprio questa notizia, questa informazione, e volevo chiederti, insomma, sappiamo che molte band italiane vanno spesso in Inghilterra per produrre, anche per fare dei tour, per fare delle esperienze. Quanto vi ha dato l'Inghilterra, l'Irlanda, nello specifico musicalmente, ma anche come contatti, insomma, come possibilità? Beh, è innanzitutto una terra splendida. E penso che questa cosa si senta anche nel disco, nel senso che è un disco che è molto vicino alle sonorità della terra, quindi ci sono l'utilizzo di strumenti come i corni, metallofoni, comunque suoni che sono molto legati al rapporto dell'uomo con la natura. E è una terra appunto che ci ha ispirato molto fin dalla preproduzione che abbiamo fatto qui vicino a Novara. E poi direttamente lì nei giorni di registrazione, quindi ci ha dato assolutamente molto. A livello di contatti, diciamo, è stato bello conoscere i Sigur Rós, cioè ci sono anche delle collaborazioni con Liamina nel nostro disco, che è un quartetto islandese abbastanza noto, che si sono occupate appunto delle orchestrazioni di 2 brani, che sono Mi Sollevo e La Giostra, appunto. E, quindi niente, è stata un'esperienza che ci ha riempito d'orgoglio e di soddisfazione, e siamo appunto contenti del risultato che ne è uscito. Immagino tornerete presto in Irlanda, da come me ne parli, insomma, si capisce che è stata un'esperienza fantastica. Senti, Emanuele, parliamo di Sto Ancora Aspettando, ovvero un video che è uscito anticipando l'uscita del vostro nuovo lavoro, che tra l'altro consigliamo ai nostri ascoltatori di andare a guardare, è davvero molto carino. Cosa ci vuoi dire a riguardo questa produzione? Diciamo è il singolo di lancio del nostro disco. Il pezzo in realtà parla sostanzialmente della distanza che si crea tra 2 persone alla fine di un rapporto, che è una distanza sia fisica che temporale, insomma, nel magma del ricordo, insomma. E invece a livello di video, che è stata una produzione che abbiamo fatto direttamente noi insieme a uno scenografo che è UFO 5, che ha fatto una scenografia a nostro parere molto bella, di una specie di foresta completamente costruita in carta. E a livello di video, diciamo che questa cosa viene rappresentata attraverso un viaggio onirico di una persona dentro se stessa, a ritrovare appunto, a ricoprire la distanza che c'è tra lei e quello che sarà. Guarda, sono rimasto attento a quello che dicevi, ma con un occhio guardavo la regia, perché ho avuto una bellissima notizia, ovvero quella che i nostri ascoltatori e videovisori potranno guardare il video direttamente sul nostro sito proprio a seguito di questa intervista, quindi ascoltare e guardare il video, è una cosa molto bella, quindi l'invito assolutamente a fare dei commenti sul nostro profilo Facebook per insomma farci sapere se il disordine delle cose sono piaciuti. A noi sono piaciuti tanto, infatti vi abbiamo ospitato e siamo contenti di questo. Grazie. Vi ringraziamo dell'opportunità, vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo e magari speriamo di incontrarci presto in Sicilia con una bella tournée nel sud. Che ne pensi? Sì, noi veniamo in Sicilia il 27 di aprile, siamo a Palermo, ai Candelai, e il 28, il giorno dopo, siamo a Catania, alla Lomax. Ah, perfetto, allora verremo assolutamente ad ascoltarvi e a guardarvi, invitiamo tutti quanti gli amici, vi veniamo a trovare. Vi aspettiamo. Emanuele, grazie, a presto allora. Grazie a voi, un abbraccio. Ascoltiamo quindi Il disordine delle cose con Sto ancora aspettando. Potete guardare anche il video su rockrevolution.it. Se il rock è la tua passione, non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution. Il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. You need cool air, baby, I'm not fool air. We'll be right back. Sono passati ben 10 anni dalla pubblicazione di questa canzone degli Offspring, Million Miles Away. Era bene il 2001, terzo singolo estratto dell'album Conspiracy of One degli Offspring. Una copertina davvero molto particolare, raffigura un uomo ombreggiato di nero con gli occhi arancioni, uno sfondo tetro in cui spiccano alberi senza foglie e una landa desolata. Insomma, ho detto tutto. Andatelo ad acquistare se non l'avete fatto, molto bello. Gli Offspring, non è mai troppo tardi, sono dell'idea insomma che quando si scoprono belle canzoni vale la pena di ascoltare tutto l'intero disco. Prossima canzone, fra pochissimo avremo l'ospite questa sera in studio con noi e parleremo con lui, con Francesco Vannini. California, We Are The Shantish e questa è Impatience. Adesso è il momento dedicato al Rock For You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Se il rock è la tua passione, wow! Non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock For You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. Bye. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. For You, quattro successi rock in sequenza, senza interruzioni. Get what

for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Era il Rock for You di questa settimana, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Insomma, avete sentito che gran musica anche questa sera. 22:39, ci ascolterete in replica anche sabato pomeriggio dalle 19, se non erro, sì, dalle 19 fino alle, fatevi il conto, 3 ore. E diamo spazio subito alla presentazione degli ospiti di questa settimana, che in realtà è uno. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. La faccio stile Hollywood questa settimana, ok? Attenzione. Ladies and gentlemen, facevo anche qualche anno fa sta cosa, poi è andata un po' nel dimenticatoio. Comunque, da Palermo abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Vannini. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi e a tutti. Bene, bene, Francesco, standing ovation anche per te. Iniziamo, noi ci siamo conosciuti qualche annetto fa, no? Sì. Con un'altra formazione che erano i Marcello e Qualsiasi. Esatto. I Qualsiasi non ci sono più, Marcello se n'è andato ed è rimasto Francesco. Francesco, è nato Francesco, appena nato, da quest'estate, diciamo. Infatti, senti, parlaci un po' di te, vogliamo parlare anche della tua formazione musicale, no? Perché magari c'è gente che si è persa la prima intervista, dice, ma chi è Francesco Vannini? Da dove viene fuori Francesco Vannini? Allora, parlaci un po' di te, della tua formazione musicale, come hai iniziato a interessarti della musica e poi fino ad arrivare insomma allo scioglimento con i Marcello e Qualsiasi, e volevo sapere tra l'altro se c'era sentore l'ultima volta che ci siamo visti di questa cosa qui. Ma insomma, parlare di Marcello e Qualsiasi è un po' una ferita aperta, nel senso che ogni volta che le band si sciolgono ci sono sempre dietro motivi che le persone dall'esterno non sanno, ed è meglio che non sappiano, perché non è il caso. Sono non è il prima. Caso. Ti posso parlare di me, ti posso dire che io ho cominciato ad avvicinarmi alla musica con il pianoforte classico, peraltro. Ho studiato pianoforte fino al quinto anno, poi, come tutti i ragazzini che entrano al liceo, piuttosto che studiare 3 ore al giorno il pianoforte, andavo a giocare a calcio. Ecco. Col senno di poi, chiaramente, è stata una grande stronzata. Si può dire? Certo, sì, diciamolo. Una grande stronzata, ma vabbè, ormai è andata. È andata. Ti posso dire la musica che ho sempre ascoltato. De Gregori, subito, cioè mettiamo le carte in tavola, è giusto che sia bene, così. Bene, musica italiana quindi. Musica italiana prevalentemente, non saprei dirti perché, però è successo. Mm-hmm. Per cui i cantautori della scuola romana, Venditti, De Gregori e tutti quelli di quegli anni lì. Poi sono arrivati i gruppi rock italiani. Ho fatto anche tributi a Litfiba, Negrita, poi ci sono i Marlene Kunz, poi ci sono gli After Hours, ora il Teatro degli Orrori, che è una realtà che esiste da tanto ma che viene fuori, da, fuori soltanto da adesso, poco. Sì. E quindi cominciare a fare musica io, la prima vera band in realtà sono stati appunto Marcello e Qualsiasi, fondati da me dal 2000, lontanissimo 2007 ormai, per cui figurati. Mi chiedevi tu se c'era il sentore. Se c'era il sentore l'ultima volta che ci siamo visti di questo scioglimento dei Marcello e Qualsiasi, cioè se già avevate scazzato, siete venuti a forza oppure abbiamo voluto giocare coi titoli col titolo dell'EP che si intitolava L'ultimo show, che ascolteremo tra l'altro stasera in versione ripresa, sì, da te, riproposta. Sì. Riproposta mi sa un po' di, non lo so, forse non termina adatto. Ma guarda, in realtà la canzone L'ultimo show non l'avete mai sentita dei Qualsiasi, cioè c'era soltanto il titolo dell'EP che comprendeva 5 canzoni, ma non questa. Per cui in realtà è la prima volta che si sente. Ah, che bene, sono contento. Allora, se volete fare qualche domanda a Francesco o lasciare insomma un commento. Un convento anche. Un convento, senso, un pampinato. Allora, ormai si paga l'ICI anche sì, nei sì, conventi. Sì, sì, per forza, non è giusto. 335 56 37 251 è il numero per gli SMS, oppure su Facebook, dove ci potete, oltre che guardare, ascoltare, anche commentare su tutto ciò che accade qui all'interno del nostro studio. Allora, Francesco, andiamo ad ascoltare la prima canzone registrata in studio. Parliamo di bomboletta spray. Registrata in casa. Ah, homemade. Vi volevo, appunto, la particolarità qual è? 2 secondi di presentazione. Quest'estate mi sono trovato senza band, come abbiamo appena detto. Mi sono ritrovato nella mia stanza, circondato dai miei vari strumenti che faccio finta di saper suonare. E lì ho detto, piuttosto che non stare a far nulla, mettiamo insieme gli strumenti che ho, vediamo che viene fuori. Sono venute fuori questa canzone innanzitutto che adesso sentiamo, e poi in caso ne parliamo meglio. Volentieri. Quindi Bomboletta Spray. Colgo l'occasione per salutare il nostro amico Bomboletta, anzi. Bel soprannome. Chissà che ha fatto. Ma... Francesco Vannini, all'interno di Rock Revolution su CRMP Radio, questa è Bomboletta Spray. Ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray, col peperoncino dentro per tirarti via dai guai. E per te adesso è una missione ripulire la città, da clandestini e culattoni, da chi invade e va di qua. Ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray e la capacità di offrire soluzioni per i guai. Ti hai smesso di comprare dischi perché pare siano rom. Hai smesso di cantare in giro vagabondo che non sono altro. E sei approdata alla TV dentro al canale nazionale, sbocciando la tua bomboletta per novità sensazionale. Immaginate una mattina tutta la città pulita, è un'idea più che divina, buona anche per l'insalata. Ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray e migliaia di persone da plagiare come vuoi. Ti hanno dato in dotazione solo una bomboletta spray che è trasformato in convinzione che il diverso porti guai. E si è approdato alla TV dentro al canale nazionale, spacciando la tua bomboletta per novità sensazionale. Immaginate una serata, tutta la città spacchiata, senza neanche una puttana alla fine della giornata. E si è approdato in Parlamento con legge ad hoc per ripulire la città da chi è diverso, riguarda reddito e colore. Immaginate i miei colleghi ritornando dal lavoro, solo spray al peperoncino e nemmeno un clandestino. Francesco Vannini su CRMP Radio, questa era Bomboletta Spray. Francesco, andavi come un treno in questa canzone, proprio sì, bella, complimenti sì. Davvero. Allora Francesco questa sera con noi a Rock Revolution per parlare di questo suo nuovo progetto, facciamolo conoscere a 360 gradi ai nostri ascoltatori, quindi cosa farà Francesco Vannini nel prossimo futuro? Allora, il progetto che comprende questa canzone più la prossima fa parte di un progetto che si intitola, e non poteva essere diversamente, Di Necessità Virtù, tutto attaccato. Riguarda proprio il fatto che avevo pochi strumenti a disposizione e ho cercato di utilizzarli al meglio. Sostanzialmente una gran cassa, una chitarra, un kazoo, diverse armoniche, una manciata di armoniche a caso e tante voci, canti, controcanti, corretti anche stupidi. Scusa la mia ignoranza, cos'è un kazoo? Il kazoo è quello strumento che utilizza anche Bennato, che fa... Ah, perfetto, perfetto, pensavo fosse un'ocarina, io ignorantemente. No, il kazoo, il che kazoo. C'ha anche un nome un po'... Kazoo, un nome del kazoo. Esatto, poi si suona con la bocca, quindi... Perfetto, ecco, abbiamo detto tutto. Per fortuna siamo fuori fascia protetta. Senti, Francesco, dove trovi l'ispirazione per... perché tu sei compositore, chiaramente, scrittore, autore delle tue canzoni. Come nasce una canzone di Francesco? Dove la trovi? Quando la trovi? Bella domanda, da 20 milioni di dollari. Accendi la televisione e vedi tante cose che ti convincono, che ti convincono meno. Leggi i giornali, ne leggi uno di destra, poi ne leggi uno di sinistra, poi ne leggi uno di centro e sono tre notizie completamente diverse. E quindi i mass media, stranamente, perché molti... No, io non guardo televisione, io... I mass media forniscono tanta, tanta carne che poi è mio compito mettere al fuoco, diciamo. Decisamente, quindi un po' comunque di tutto ciò che accade attorno a te. Sì, cioè... soprattutto attualità. Bomboletta Spray è stata scritta, ad esempio, parla di quando si parlò delle famose ronde private. Sì, sì. Che avrebbero avuto in dotazione chiaramente non armi. In Padania. Ma ad esempio le bombolette spray al peperoncino. Cioè. Ed era molto bello anche vedere nei telegiornali di un certo tipo, che io chiamo le mie telenovelas preferite, canali Mediaset, come cercavano di rendere, perché la Lega tra l'altro andava a braccetto con il signor lui, ed era bello come cercavano di farla sembrare una cosa intelligente, ho scritto questa canzone. È giusto, bella, davvero una bella risposta. La musica dà la possibilità di comunicare e tu l'hai fatto egregiamente. Allora, prossima canzone, abbiamo il piacere, Francesco, di sentirti dal vivo in versione acustica. Yes. Nei nostri studi per Rock Revolution, cosa ci fai ascoltare? Una canzone che si intitola, guarda caso, Tutto fa Audience. Quindi Tutto fa Audience, Francesco Vannini a Rock Revolution Live Unplugged. Ma non lo sai quanto si può guadagnare senza far niente di niente, andando in televisione. Basta due invitarsi dentro una trasmissione. Basta far finta d'avere la terza elementare. Ma non lo sai che anche chi non ci crede segue l'oroscopo e il telegiornale, che poi d'entrambi non è vero mai niente. Amore, soldi, lavoro, pensione. Non ci resta che ridere, non ci resta che piangere. Tanto tutto fa audience e tutto può succedere. Ma non lo sai, ormai basta votare senza nemmeno sapere che cosa può comportare essere di destra o svoltare sinistra. Gente che parla alle folle da una finestra. Ma non lo sai che in questa rivoluzione ciò che è cambiato è soltanto il nome, che cambia tutto per non dover cambiare, che per loro sarei sempre solo un coglione. Non ci resta che ridere, non ci resta che piangere. Tanto tutto fa audience e tutto può succedere. Non c'è niente da ridere, non c'è niente da piangere, ma qui tutto fa audience e tutto può succedere. Ma non lo sai che qui ormai basta lanciare un souvenir di Milano in faccia un santo a un infame per ritrovarsi dentro un telegiornale come un malato, un eroe, solo cambiando canale. Ma non lo sai che qui la legalità non ha lo stesso colore del cielo, a meno che il cielo non sia marrone e non ci si possa pulire il culo. Non ci resta che ridere, non ci resta che piangere. Tanto tutto fa audience e tutto può succedere. Non c'è niente da ridere, non c'è niente da piangere, ma qui tutto fa audience e tutto può succedere. Grazie. Standing ovation. Senti, allora che dobbiamo fare? Ridiamo o piangiamo? Tanto tutto fa audience. Non... Perfetto, la risposta proprio perfetta. Beh. Stiamo scherzando con Francesco Vannini all'interno di Rock Revolution su CRMP Radio. La musica emergente, la musica nuova, la migliore musica in assoluto. Guarda, sono vanitoso. Grazie, tra l'altro. Infatti. Senti, Francesco, parlaci un po'. Tu vieni da Palermo, volevamo sentire anche il tuo punto di vista riguardo l'ambiente palermitano, nel senso, in che modo hai intenzione di far conoscere la tua musica e questo nuovo progetto da solista? Ti stai già muovendo? Trovi disponibilità da parte anche dei gestori di locali nel promuovere e dare possibilità di proporre musica nuova? Innanzitutto, che si suoni da soli, che si suoni in 5 piuttosto che in 15, La promozione in generale è sempre meglio farla in ambiti come contest, festival, che ti mettono un po' al riparo da quella che poi è il panorama palermitano, che è quello dei gestori dei locali, che non è che ti chiedono se suoni bene o male, ma che ti chiedono in realtà quanta gente porti nel locale, se consumerà, e io che ne so. Certo. Tra. Per cui in realtà sicuramente il fatto di suonare da solo, al massimo con due o tre elementi, apre molte porte. Ecco, hai aperto proprio la prossima domanda che volevo chiederti, cioè secondo te è più facile emergere, riuscire ad emergere come da solista o con una band? Il fatto di suonare da solista non implica necessariamente che si debba essere da soli sul palco. Nel mio caso è un'opportunità che mi voglio riservare di utilizzare, cioè posso suonare anche da solo con quell'armamentario di strumenti che ti dicevo. Purtroppo sì, cioè nella realtà da solista è molto più semplice, perché chi ti assolda per suonare deve pagare una sola persona piuttosto che cinque. Certo, decisamente. Senti Francesco, sogno nel cassetto, te lo dico così, bruciapelo. Indovina. Ne parlavamo anche poco fa. Sarebbe bello campare con la musica. Vivere di musica, insomma, il sogno di tutti quelli che la fanno. Allora, prossima canzone, ne abbiamo parlato poco fa, proprio di questa, l'ultimo show, e quindi l'ascoltiamo in questa bella versione registrata. Lui è Francesco Vannini, su Rock Revolution. Nuovo progetto musicale molto interessante. Poi a me la chitarra acustica fa impazzire, veramente. Si intitola L'ultimo show. L'ultimo show sarà un funerale, giusto o sbagliato per quanto va, le polmoni di fango e mani di legno, e noi tutti all'altare sotto lo stesso segno, tutti a parlare di quanto fa male il fumo, la noia, il quarto canale, tutti sudati dentro giacche scure ad esorcizzare le proprie paure. L'ultimo show sarà un funerale, male che vada non può fare più male. In testa capelli che non sono più i tuoi, e il vestito buono conservato per poi. Tutti a parlare dei pochi parenti, delle tue tre mogli, dei tuoi pochi denti. Tutti di fronte alla pietà di Dio, tutti a mentire su quanto eri pio. E non sarà per te un problema se tornerò a casa in tempo per cena, se parlerò solo ma giusto un po' del governo ladro di Dario Fo. E non sarà per te un pensiero se sottovoce esprimerò un desiderio, se resterò a letto senza guanciale sulle lenzuola da riposare. L'ultimo show sarà un funerale, pezzi di pane, patate, sale, labbra di marmo e pugni d'ottore, e quella tua solita maglia in cotone. Tutti a parlare di quanto fa male il fumo, la birra, il telegiornale. Tutti in ginocchio qui sotto l'altare, la faccia al petto e la mente al mare. E non sarà per te un problema se cucinerò per uno stasera, se chiuderò i libri e le porte quando il silenzio sarà troppo forte. E non sarà per te un pensiero se un po' di fretta a calare il sipario. L'ultimo show è stato il tuo funerale e non è andato per niente male. Thank you. so c'è stato il tuo funerale e non è andato per niente male. Francesco Vannini, l'ultimo show su CRMP Radio all'interno di Rock Revolution. Francesco, davvero complimenti per questa bella musica. Grazie mille. Homemade, come hai detto tu, insomma, davvero molto bella, molto piacevole, molto radiofonica dal mio punto di vista. Senti, volevo farti una domanda un po' complessa, no? Perché comunque parliamo di cantautorato italiano. Secondo te, in questo momento, su cosa dovrebbe puntare? In questo momento punta... Se lo sai, chiaramente, che comunque è una domanda da... In questo momento... Chi non si occupa di musica ma di spettacolo si sta occupando di Lucio Dalla, che voglio dire, è sempre bello sentire le canzoni, ma è sempre brutto pensare che queste canzoni vengano tirate fuori solo in certe occasioni. Assolutamente d'accordo. Io credo che ci sia un grandissimo movimento di cantautorato italiano, di giovani che ci piacciono. Io ho preso a cuore, perché poi alla fine faccio ho un tipo di strumentazione simile ai Pan del Diavolo, ad esempio. Ma come ti dicevo, c'è il teatro degli orrori, c'è che poi voglio dire, valutare come giovani è un po' arduo, perché sono giovani per chi non li conosce, in realtà sono in giro da tanto tempo. Poi io credo che in realtà chi è riuscito ad arrivare a certi livelli è solo perché si sia trovato nel punto giusto al momento giusto, perché in realtà poi le cantine di tutta Italia sono piene, secondo me, di grandissimi talenti che... È ottimo vino, penso. È ottimo, mi auguro per lo. Senti, Francesco, ascoltiamo l'ultima canzone in versione acustica dal vivo. Volevo chiederti, hai già fatto, oltre a averle registrate chiaramente a casa, già proposte al pubblico in questa versione così, oppure è la prima volta qui in radio? Allora, intanto in radio io adesso sto suonando sprovvisto di tutto, solo con la chitarra e con la voce, per cui è proprio unplugged assoluto. No, però ci sono in progetto tante possibilità, non solo qua in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia. Anzi, in Italia, perché qua in Sicilia non si è ancora ben capito dove sia. Anche certo, in Italia. Effettivamente hai detto una cosa un po'... Adesso fanno il ponte sullo stretto. Allora siamo a posto. Allora, ascoltiamo Francesco Vannini, versione dal vivo. Cosa ci canti di bello? Giusto per smentire tutto quello che abbiamo fatto, una canzone d'amore, visto che dicono... Che fra poco è la festa della donna. Infatti, dicono, tra l'altro, io ne scriva poche, che è vero, perché le canzoni d'amore sono un argomento delicato. Si intitola Tutto Torna. Francesco Vannini, Tutto Torna, dal vivo a Rock Revolution. Ci ho pensato, sai, a cosa potrei fare. Se non esiste un noi, dovrò per forza andare. Ridammi i giorni persi, le ore lunghe dell'estate, i cieli azzurri e tersi, le stelle ormai cadute. Ci ho pensato, sai, a cosa potrei fare. Andare via per la mia strada e non tornare. Riprendi i tuoi CD, i plettri e le fotografie. Ti lascio tutto qui. Le strade tue non sono più le mie. E tutta la città ti parlerà di me, seduto dentro a un bar tutta la notte insieme al mio caffè. E tutto torna qua, e devo essere onesto, io sono ancora roba tua, non sono pronto a questo. Ho trovato, sai, le foto che hai nascosto, i fogli gialli di un passato che non ho rimosso. Ridammi il mare azzurro, il sale di spiagge assolate, l'amore che ti ho dato e le tue ultime scenate, e tutta la città mi parlerà di te, distesa sul tuo letto senza mai riuscire a prender sonno, e niente tornerà, e devo essere onesto, io sono ancora roba tua, non sono pronto a questo dolore che non mi risparmia mai, che quando arriva scava grandi solchi, che io non riempirò mai, finché non ammetterò semplicemente che mi manchi. Tornerà, e devo essere onesto, non sarò mai più roba tua, non ero pronto a tutto questo. Allora Francesco, ti comunico che dopo averti sentito suonare dal vivo questa sera sei entrato nella mia personale top 20 dei cantautori italiani, che era formata da 19 cantautori. Grazie. Complimenti, complimenti, è vero, fantastica la musica, le parole, tutto quanto. Hai le carte vincenti per sfondare, ricordati di noi un giorno quando diventerai famoso. Speriamo. Io, voi ricordatevi di me nel caso dovesse essere il contrario, ce lo auguriamo entrambi, guarda, veramente di cuore. Francesco, chiudi pure l'intervista se vuoi salutare delle persone, insomma ringraziare qualcuno. Devo ringraziare la mia ragazza, che a parte sta facendo tante foto col flash, per cui siamo flashati tutte e no, due. Non vedo più nulla. No, perché è stata poi quella che mi ha fatto capire che da solo posso seguire i miei tempi e quindi magari andare un po' più veloce rispetto a, alle band, ai tempi di tutti gli altri. Perché quando fai musica a livello amatoriale, perché non siamo professionisti, c'è quello che studia, c'è quello che lavora, c'è quello che deve far saltare la pro, succede sempre. Certo. E poi ti volevo... Molto più facile da gestire, chiaramente. Molto più facile da gestire, c'è anche un rapporto con i vari musicisti con cui poi suoni che è diverso, perché il progetto è mio. In un modo o in un altro, cioè, forse è anche brutto da dire, ma in un modo o in un altro si deve seguire la mia linea di lavoro. Certo, no, ma è giusto, è del tutto lecito fare questi ragionamenti. Vi volevo dire anche di due date che mi inorgogliscono abbastanza. Saranno volentieri. Una a Vicenza il 17 marzo, giusto? Sì. Il 17 marzo in pratica vado a registrare tre canzoni in presa diretta più un'intervista per una web radio che è Uno TV, che esiste da tanto tempo, gloriosa, funziona bene. Saluta i nostri colleghi. Salutiamo. Bene. Salutiamo. E poi la stessa settimana, il 24 a Roma, in una manifestazione che si chiama il Salotto Cantautori, che è una manifestazione itinerante, per cui chissà, forse riusciremo anche a portarla a Palermo e dintorni. Beh, volentieri, dove... manca un po' di musica cantautoriale, sì, a Palermo. Tra l'altro, chiaramente... io chiamerò voi per fare la diretta. Oh, che bello, bene, volentieri. Cercheremo di fare valere tutto ciò che di buono abbiamo qui, per cui mi sembra il minimo. Bene, Francesco, ti ringraziamo, ti auguriamo, ti facciamo i complimenti prima di tutto e ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro. Sentiamoci presto, va bene? Grazie. Grazie, buona serata, ciao caro. Adesso il momento dedicato alla musica dal vivo, però non quella emergente, ma quella famosa, insomma, le canzoni che hanno fatto la storia della musica in queste due versioni dal vivo molto particolari. Stiamo parlando di una accoppiata un po' particolare, eh? Parliamo di Metallica e di Queen, quindi dalla musica tosta a quella un po' più morbida dei Queen, ma allo stesso tempo molto graffiante. Questo è Rock Revolution Live, ogni settimana due grandi successi. sono le 23.09, Rock Revolution fino a mezzanotte, poi ci seguirete anche in replica sabato pomeriggio ed in podcast dal nostro sito www.rockrevolution.it o della nostra emittente www.crmpradio.it. Quindi adesso Rock Revolution live in sequenza Metallica e Queen. Rock Revolution Live. Rock Revo Live, due brani dal vivo, fantastica sequenza assieme a Metallica e Queen. Francesco è tornato, si è dimenticato una cosa importante. Sono riuscito a interrompere i Metallica e Queen per dire che volevo ringraziare una persona che mi è stata vicinissimo in questo progetto, che è Totò Grilletto degli Incanto da Ziz. E lui, lo salutiamo, è lui l'anima che mi sta portando avanti con tanto amore. Bene, lo salutiamo anche noi. Grazie Francesco, alla prossima. Prossimo brano di Switchfoot, Dark Horses, ne parleremo subito dopo la canzone. Tra l'altro una band molto forte, sta andando per la maggiore in tutto il nord Europa. E noi l'abbiamo qui a Rock Revolution. We're singing, wait, it's not over now. We've been Anche in questo caso siamo in California, esattamente San Diego. Però sono gli Switchfoot, rock band californiana conosciuta per i testi spiritualmente evocativi e socialmente profondi. Infatti, secondo il cantante John Foreman, il termine Switchfoot è un termine usato nel surf per indicare l'affrontare una direzione opposta. Bella sta concezione, eh? Non fare sempre i pecoroni, andare tutti quanti sempre al stesso posto, fare sempre le stesse cose. Distinguiamoci. Arriva Bruce Springsteen con Angry Heart. Siamo nel 1980 con Bruce Springsteen, Angry Heart. Il brano tra l'altro è stato composto inizialmente per i Ramones, su richiesta dello stesso Joe Ramone. Poi successivamente decise di tenerla per sé e quindi l'ha cantata. Davvero molto molto bella. Raggiunse tra l'altro la prima posizione nel Rolling Stone nel 1980. Lui era Bruce Springsteen con Angry Heart. Adesso arrivano due brani in sequenza. Grandissima accoppiata, vincente direi, con David Bowie e il mitico Billy Idol. Questo è Rock Revolution su CRMP Radio, la radio che si sente e si vede. We'll be right back.

Due brani in sequenza, David Bowie e Billy Idol all'interno di Rock Revolution. Arrivano degli aggiornamenti da Palermo, da Francesco Quartararo, che salutiamo nuovamente, riguardo il contest di cui parlavamo prima. Quindi gli Zyron vanno direttamente in finale al contest del Barcollo per abbandono del Chasing Memories, quindi è la serata praticamente saltata. Gli Zyron automaticamente in finale del contest, quindi tanti auguri agli Zyron e salutiamo nuovamente Francesco Quartararo. Ciao, grazie per l'aggiornamento. La musica continua adesso con un altro grande classico della storia della musica, sono i Deep Purple con Strange Kind of Woman. There once was a woman, a strange kind of woman, the kind that gets written down in history. Her name was Nancy, her face was nothing fancy, she left the trail of happiness and misery. Everybody loved her, she loved everyone that gave them good return. I tried to take her, I even tried to break her. She said, I ain't the taker, won't you ever learn? I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as it took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a strange kind of woman. She looked like a raven, but I could never please her. A Wednesday morning, boy, you can't go far. The things got better, she said. Tap me right from now, well, baby, you're my star. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money and I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. Oh,